in questo ciclo di nuovo lavoro, di poter avere la soddisfazione di avere un mercato più disponibile. Sono in corso di elaborazione anche in altre regioni? Questo tipo di protocollo lo presenteremo in tutte le regioni italiane. Luci e ombre di una legge che sta per festeggiare quasi 30 anni dalla sua prima intuizione per merito di Pio La Torre, il politico siciliano ucciso dalla mafia, e per merito dell'ex ministro dell'interno Virginio Rognoni. Bisogna partire da questa premessa: un'area ben governata respinge il mafioso, un'area mal governata invita il mafioso, e quindi una situazione di crisi politica che indubbiamente c'è nel nostro paese in questo momento, aggravata da una crisi economica e finanziaria, costituisce uno scenario nel quale la mafia può giocare. Ecco perché bisogna richiamare l'attenzione di tutti e la vigilanza di ognuno di noi contro un di più di infiltrazione mafiosa che noi dovremo probabilmente avere nei prossimi anni. Non si possono avere delle misure antimafia anche valide e però nel contempo promuovere indirettamente un lassismo nella vita politica, nei comportamenti collettivi, perché è di questo che la mafia profitta. Comincia ad esserci anche una presa di coscienza, una consapevolezza di come questo problema vada affrontato in modo unitario, quindi anche al nord, che invece ha per tanto tempo, dal punto di vista politico, respinto l'idea di essere contagiato dal problema delle mafie. Proprio per questo ho detto che bisogna parlare di mafia qui al nord, perché fino a ieri c'era qualcuno che riteneva che non dovesse esserci la mafia in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, invece no, l'Ndrangheta in particolare si è infiltrata paurosamente e si va diffondendo questo insediamento della mafia, e quindi occorre che si abbia coscienza di questo e occorre evitare il silenzio. Non parlare di queste cose vuol dire praticamente lasciare che le cose che non vanno vadano avanti. Non vide l'entrata in vigore della sua legge Pio La Torre, ne ricorda lo spirito e i rischi il figlio Francesco. Bisogna prendere atto, e sono le indagini della magistratura e le azioni dei prefetti e conseguenti del Ministero degli Interni che hanno individuato, diciamo, una pervasività mafiosa nella politica. Lo scioglimento dei comuni è una conferma di questo. Comuni che vengono sciolti ormai non più solo al sud, ma anche qui in Piemonte, in Liguria, è successo anche in Lombardia, anche al nord. Ecco, anche questa era una intuizione che suo padre aveva avuto nell'importanza dell'aggressione delle mafie nei gangli del loro potere, che sono quelli economici e sono quelli della congiunzione con la politica. Si ha oggi, a 30 anni di distanza, questa consapevolezza? Io credo che la consapevolezza ci sia. Disgraziatamente temo che in alcuni casi questa consapevolezza produce inanità, produca incapacità di azione, come se la politica in certe situazioni, in certi territori, in certe circostanze abbia preso atto della sua subalternità. Per fortuna questa non è una situazione, diciamo, generalizzabile su tutto il territorio nazionale. Ora sempre di più anche al nord sta aumentando dunque la consapevolezza di dover affrontare il problema mafie, un nord da dove provengono 7.562 operazioni finanziarie sospette su 36.824, come recitano i calcoli della Banca d'Italia. Soldi che si muovono, ma anche lo Stato mette concretamente le mani nelle tasche dei boss, e Libera propone: perché non usare quei soldi liquidi a favore dei testimoni di giustizia, di coloro cioè che espongono se stessi in nome della legge? Don Luigi Ciotti. Ci sono tante confische nel nostro paese. Allora c'è la confisca per i traffici di sostanze stupefacenti, quella della tratta. Anche qui bisogna mettere ordine tutta questa materia, uniformarle, ma soprattutto non ne sappiamo nulla del denaro liquido che viene confiscato. Allora si dice che va in un fondo che viene diviso tra il Ministero degli Interni e il Ministero della Giustizia. Noi chiediamo che questo denaro liquido, che è lo stesso patrimonio dei mafiosi con cui si confisca quei beni, venga innanzitutto utilizzato per i testimoni di giustizia, per il risarcimento alle familiari delle vittime di mafia, e una quota venga utilizzato per fare partire, per rimettere a posto quei beni che rischiano di essere deteriorati, abbandonati, distrutti. Quel denaro lì è di quelli là. Era Italia in controluce, era la seconda edizione. Domani torniamo alle 6.30 su Radio 24 con la pillola legata ai temi di strettissima attualità.